English 24. Buonasera da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. Questa sera conosciamo un personaggio molto particolare. Lui si chiama Bill Kelly e fa di professione il DJ, e lo fa dal 1972 a Miami. Quindi è un personaggio della scena musicale americana, un personaggio molto importante, perché negli Stati Uniti lui è l'organizzatore di un evento importantissimo per la musica dance, la Winter Music Conference, e ce ne parlerà. L'abbiamo intercettato perché lui è stato a Roma qualche giorno fa, era ospite di un evento anche qui dedicato alla musica, in particolare alla musica dance, all'IPM, e ha spiegato un po' la sua esperienza in quanto famosissimo DJ americano. Ma come si è inventato la sua Winter Music Conference? The thing is that there was no real form or convention for dance music. Dance music was, you know, becoming extremely popular around the world, and we never didn't have a format for it. So in 1985 I decided to start a small meeting of a few people and the major record companies to come together to discuss how we could, you know, help popularize dance music around the world. Dance music was very popular, you know, going way back to the 70s and you know, 60s and 70s and 80s, but, you know, especially after the disco era, when, you know, there was a backlash of people in America mostly, but who were against dance music. But around the rest of the world, dance music has been popular for centuries. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, ci ha spiegato Bill Kelly. Sì, dice all'inizio, the thing is, che in italiano diremmo piuttosto il fatto è che, la traduzione letterale naturalmente sarebbe la cosa è che, però in italiano sarebbe più corretto, lo sentiamo meglio dire il fatto è. Il fatto è che, qual è questo fatto? Che non c'era una real convention. Forse questa è una cosa un po' americana, no? Tutte le, specialmente la cultura popolare ha le sue convention, ci sono le convention di fumetti, ci sono le convention di musica, la dance music non l'aveva. E quindi diventare extremely popular. Naturalmente popular è un false friend, non vuol dire popolare, ma diffusa, che piaceva sempre di più, e mancava una convention. Passiamo al 1985, noi perlomeno i numeri, le date le diciamo così. Sì, noi diciamo 1985, gli americani sapete che anche gli inglesi dicono 1985, quindi 1985, e in questo 1985 era soltanto questa convention che, come diceva Marta, adesso è un major event, era in realtà un small meeting of a few people. Di major c'erano soltanto le record companies. Di una musica che era già popolare da qualche anno, effettivamente lui lo riconosce, avendo appunto cominciato nel 1972, è preparatissimo su questo. Sì, dice quindi going way back to the 70s, qui notiamo gli anni 70, non diciamo anni 70, invece in inglese si dice 70s, gli anni 70, 80s, gli anni 80, eccetera, eccetera. Quindi si deve andare indietro fino a way back, possiamo tradurre così, fino agli anni 70 per vedere, insomma, quella che poi, io sono del 69, l'ho un po', poi non l'abbiamo proprio vissuta, noi, però tanto. La disco era è poi venuta subito dopo. In America non solo. Non solo in America, anzi poi in America, siccome la disco music forse veniva vista anche come fin troppo senza inibizioni, e quindi c'era stato un backlash in America, cioè non c'era stato un backlash, vuol dire letteralmente una frustrata di ritorno, cioè una specie di piccolo rifiuto da parte dell'establishment, naturalmente, questa musica che piaceva così tanto ai giovani, che forse si scalmanavano troppo. Beh, ricordiamoci Tony Manero. E però in realtà around the rest of the world, in tutto il resto del mondo, meno bacchettoni che gli americani, la disco music e la dance diventava sempre più popolare, inarrestabile, in un modo inarrestabile. E si continua a ballare, la musica cambia, ma certo è che le abitudini sotto questo punto di vista non cambiano. Infatti Bill Kelly continua a occuparsi di musica, continua con questa Winter Music Conference, e ci ha spiegato cosa è cambiato in questi anni, appunto, in cui la musica, non è proprio più esattamente la stessa. Well, you know, dance music is a very youth-oriented form of music, you know, and so it's kind of ageless, you know. There's the kids that are 16, 17, 18 years old today are, you know, as into dance music as when I was 16, 17, or 18. So, you know, it doesn't matter how old we get, you know, the dance music is a form of music that's pretty ageless. Actually, I started DJing in 1972. So by the time 85 came around, I'd already been spinning for about 13 years. And of course, you know, that was in 85. You know, it took several years for it to take off. But once it did, it got bigger than itself. La verità è che la musica cambia, ma i ragazzi ballano i ragazzi di 16, 17, 18 anni quando ce li aveva lui e gli stessi ragazzi che hanno la stessa età adesso. Sono passati un po' di annetti, possiamo fare il conto a occhio, perché se hai iniziato a fare il DJ nel 1972 non è proprio un ragazzino. Però la musica cambia, ma è senza età. La disco music come concetto c'è sempre. Sì, ha questo intercalare, l'avrete notato, dice molto you know, sappiamo che è un intercalare forse il più usato di tutti, e mi fa ridere perché definisce la dance music use oriented, cioè che è orientata all'uso, cioè fatta per essere usata, che forse chi ascolta musica classica dice ma anche la musica classica è orientata all'uso, è solo che ne facciamo un uso diverso, però insomma è chiaro quello che dice, no? La dance music è fatta per dance, per ballare, e quindi è senza tempo, ageless, letteralmente senza età. Sappiamo che possiamo aggiungere questo less o full per dire appunto senza tempo o piena di tempo, classico caso beautiful che vuol dire bello, cioè pieno di bellezza. Kids are into dance, quindi to be into something vuol dire amare particolarmente, essere interessati, ma è un modo gergale, però anche molto mirato di dirlo, e a volte si dice anche nei rapporti d'amore, no? You're so into him or you're not that into me, cioè non ti interesso poi così tanto. Invece la dance music interessa molto a chi aveva 16, 17, 18 years old alla sua epoca e a chi ce li ha oggi. Addirittura esiste il verbo I started DJing. Quindi DJ naturalmente è il DJ, lo usiamo anche noi, e to DJ vuol dire quindi fare il DJ, e DJing è il gerundio, quindi fare appunto l'idea dell'azione in corso. 1972 inizia, 1985 inventa la Winter Music Conference, quindi 13 anni, in quei 13 anni I had been spinning in un altro non modo. Non vuol dire che stavo facendo lo spinning. Ecco appunto, naturalmente to spin vuol dire letteralmente, sapete anche c'è per esempio anche il termine spin doctor, vuol dire girare letteralmente. Lo spin doctor è qualcuno che ti fa girare, cioè un consigliori, tipo un po' un Rasputin, uno che ti fa girare come vuole lui. E quindi ha in generale una connotazione negativa. Spinning naturalmente è riferito al fatto che i DJ spesso usano i dischi, o meglio, il termine è nato perché c'erano i giradischi, che adesso non ci sono più, ma i DJ continuano a usarli. Lui inizia a fare questa conference nel 1985, l'aveva detto all'inizio era una cosa piuttosto piccola, misurata, e poi cos'è successo? Poi it took off, naturalmente take off vuol dire decollare, un phrasal verb, si usa anche per gli aerei, quindi esattamente come in italiano, però esattamente come in italiano si può usare anche in modo figurato, quindi la convention it took off, and once it took off, una volta che è decollata, it got bigger than itself, letteralmente diventò più grande di se stessa, cioè diventò una cosa che superò se stessa, perché superò probabilmente anche le aspettative sue e di tutti quelli che l'avevano iniziata. Si dice sempre che una volta che si è presidente per tutta la vita, il presidente lo si chiama sempre presidente anche quando non lo è più, ma anche i DJ quando lo sono una volta lo sono per tutta la vita. Allora io non mi sono tenuta e gliel'ho chiesto, dico ma signor Bill Kelly, a lei piace ancora fare il DJ? Sentite come mi ha risposto. Did I feel like DJing? Are you kidding me? I love DJing. There's a certain enjoyment watching people dance and have fun and enjoy themselves to what you're doing. Yeah, no, it's definitely entertaining. And I, music is always changing. So, you know, like I say, it's ageless. So, you know, I still play music. I play contemporary music that's very current. You know, so no matter how old I get, the music continues to grow and get. It's, you know, there's always new music and new frontiers. Ma are you kidding me? Cioè, mi stai prendendo in giro? Gli ho detto, ma a lei piace ancora fare il DJ? Ma ovvio, cioè non puoi smettere. Sì, questa è un'espressione appunto tipica che in generale è usata in un modo gentile, cioè se qualcuno ti ha offeso non useresti questa espressione, ma se invece qualcuno ha detto una cosa che è semplicemente un po' strampalata ma l'ha detto senza, in buona fede, come hai fatto tu, allora gli si può dire "you kidding me", cioè mi prendi in giro. Quindi to kid someone vuol dire prendere in giro, perciò Bill Kelly ha chiesto a Martha: ma mi prendi in giro? Certo, I still love DJing. Perché c'è un certain enjoyment in watching people dance, quindi c'è un certo piacere, ma naturalmente probabilmente un grandissimo piacere nel guardare le persone che ballano perché tu li fai ballare, tu hai messo la musica che gli piace. Tu hai messo la musica che gli piace, l'aveva detto anche prima, la musica cambia e quindi devi stare al passo con quello che è contemporaneo. Quindi è tutta dance music, ma naturalmente la dance music di tanto tempo fa non è quella di oggi. Lui cerca di to pick, quindi scegliere, tirare fuori. Pick sappiamo che è il proprio... il toothpick, per esempio, lo stuzzicadenti, quindi pick dà l'idea di qualche cosa che proprio estrai, perciò scegli tra tante cose, la scegli con cura, la scegli sottilmente, e quindi lui tira fuori questa contemporary music, addirittura più che contemporary, perché contemporary naturalmente vuol dire contemporanea, no, that is very current, cioè proprio di quel momento lì, quindi cerca di essere molto sul pezzo, possiamo dire. Sì. Molto sul pezzo, cerca sempre di scoprire la musica nuova, addirittura, le nuove frontiere, la musica ha sempre dei nuovi orizzonti da scoprire. Sì, lui ci lascia intuire che probabilmente le sue preferenze magari non sono proprio sempre in linea con quello che c'è, dice no matter how much I like it, cioè non importa che a me questa cosa piaccia o no, però music continues to grow, e quindi there is always new music, e la sua intelligenza, naturalmente probabilmente anche il fatto che sia un DJ così longevo, è che non resta attaccato ai suoi gusti personali, ma cerca di prendere da tutto quello che la scena musicale offre il meglio comunque, e di offrirlo alle persone che poi so much enjoy themselves a ballare. Beh, devo dire, mi piace l'idea di questo DJ per sempre che si diverte sempre a fare divertire la gente e si diverte a guardare la gente che si diverte. Straordinario. Bill Kelly, che è stato con noi per questa puntata di English 24, che si conclude qui. Devo ricordarvi, English 24 è il nostro appuntamento in edicola, English 24 è il nostro appuntamento sulla pagina di Facebook. Quest'estate, vi promettiamo, cominciamo anche a riempirla con un sacco di contenuti originali, in attesa poi delle puntate tutte nuove che ricominceremo a fare da settembre in poi. La prossima settimana sarà l'ultima di questo ciclo di English 24. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, da Marta Cagnola, Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.